208. Pollo alla cacciatora. Trinciate una grossa cipolla e tenetela per più di mezz'ora nell'acqua fresca, indi asciugatela e gettatela in padella con olio o lardo. Quando è cotta, mettetela da parte, spezzettate un pollastro, friggetelo nell'unto che resta e rosolato che sia, uniteci la detta cipolla. Conditelo con sale e pepe e annaffiatelo con mezzo bicchiere di sangiovese o d'altro vino rosso del migliore e alquanto sugo di pomodoro e dopo 5 minuti di bollitura servitelo. Vi avverto che non è piatto per gli stomachi deboli.